I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Margherita avanza da sola, coperta dal mantello e dal cappuccio. In mano tiene una pietra. Ai suoi lati donne. Si fa strada a fatica, passo dopo passo. Viene strattonata, tirata per un braccio, per i capelli. Ognuna vuole dirle qualcosa che considera di massima importanza, una piccola verità. Mentre la trattengono, le dicono queste parole, a turno, appoggiandosi fastidiosamente a lei. Se le donne fossero al potere non ci sarebbero più guerre. No, non farlo, è un linguaggio maschile, noi siamo diverse. Devi resistere, tu sei più forte di loro. Non potrai mai farle del male, tu e lei amate lo stesso uomo. Una donna dovrebbe tenersi sempre un po' in forma. Resisti! Una madre sopporta ogni dolore. Resisti! Le donne sanno comprendere tutto, bisogna essere orgogliose delle proprie rughe. Resisti! Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Io e i miei figli me li sono sempre curati da soli. Gli uomini bisogna saperseli tenere. Resisti. Le donne sono più avanti. Tuo marito è bravo, ti aiuta col bambino. Vedrai che poi gli passa e ritorna. Resisti. Hai il ciclo, è per questo che sei nervosa. Ogni donna è speciale. Resisti, resisti, resisti. A un certo punto appaiono altre due donne, coperte. Hanno in mano una pietra. Urlano: resistenza è quando faccio in modo che ciò che non mi sta bene non accada più. Margherita si avvicina a loro. Fa per coprirsi meglio. Poi si scoprono del tutto e insieme lanciano le pietre. Liberamente ispirato a Disoccupate le strade dai sogni di Alois Prince. Questa apertura, ciao a tutte e ciao a tutti, è tratta da Digitalis Purpurea, Refe, Relazioni Femministe, Riflessioni e Pratiche su Conflitto, Corpo, Violenza 2012. E Ancora ciao a tutte e ciao a tutti, sta iniziando la trasmissione I nomi delle cose e oggi ci occuperemo, visto che avanza il tempo e siamo tornati a un nuovo 25 aprile, parleremo di fascismo quindi, e antifascismo naturalmente. La prima parte sarà dunque dedicata ad alcune riflessioni femministe sul fascismo e dopo la parentesi di Elisabetta, che oggi si chiama richiamare gli ambasciatori, nella seconda parte invece vorremmo affrontare lo stesso discorso però dal punto di vista chiaramente della lotta e quindi dell'antifascismo militante, cosa è oggi, come si declina, eccetera eccetera. Ciao a tutti per un'altra volta. E, come ha detto Margherita, questa trasmissione è dedicata a riflessioni femministe sul fascismo e sull'azione antifascista oggi. Quindi, per prima cosa, ci possiamo chiedere da che cosa è caratterizzata l'ideologia fascista per poter riportare l'antifascismo all'attualità. Bisogna un attimo che prendiamo dei punti fermi di partenza. Allora, prima di tutto il fascismo è un'ideologia che prevede il governo diretto dei potentati economici, anzi ancor più del fascismo il nazismo. Dopodiché ha un'impostazione estremamente gerarchica della società, una impostazione gerarchica che si riflette a tutti i livelli. E quindi per noi femministe poi è particolarmente importante, perché il livello gerarchico del sociale all'esterno si riflette anche nel quotidiano, si riflette anche in famiglia, a parte il fatto che poi l'ideologia fascista prevede proprio una gerarchizzazione precisa in famiglia, la famiglia come riferimento nodale della società, il ruolo maschile estremamente definito, il ruolo femminile estremamente subalterno e determinato in un ambito estremamente ristretto, no? La maternità, il lavoro di cura, il ruolo della donna come supporto, assistenza, comunque una figura di secondo piano, supporto, assistenza alla famiglia e alla società in generale. Quello appunto che chiamiamo lavoro riproduttivo in senso esteso. Esatto, in senso esteso e preciso. Allo stesso tempo, come nella famiglia c'è una rigida collocazione dei ruoli, anche nella società c'è una rigida collocazione dei ruoli, cioè le classi e le definizioni di classe sono molto precise e ognuno e ognuna deve essere contento di stare nella sua collocazione e non deve ambire ad uscirne, bensì insieme a tutti gli altri deve marciare per la cosiddetta patria, per il bene collettivo della nazione. No, questo è il quadro sociale in cui si inserisce poi un certo tipo di ordinamento statale, ordinamento pubblico. Quindi ne discende un'esaltazione dei ruoli di comando e un'esaltazione dei ruoli gerarchici in tutti i momenti della società, no? E anche come anche di quelli sessuati, perché certo. Poi se si pensa per esempio all'ideologia scientista, no? Che fa da base al pensiero nazista, per cui l'umanità e l'identità viene ridotta al suo sostrato biologico oppure al suo sostrato razziale, certo. Allora questa divisione sessuata nonché razziale della società chiaramente viene implementata e rafforzata, no? Certo. E quindi c'è il rapporto del potere con i cittadini il rapporto all'interno delle classi e all'interno anche della famiglia si basa su un'azione estremamente violenta, sia esplicita che supportata da tutta una serie di stigma e condanne rispetto a qualsiasi tipo di devianza e qualsiasi tipo di alterità rispetto a quella che è considerata la norma dei rapporti gerarchici, sociali, familiari e compagnia bella, no? Per cui la violenza e il controllo sociale sono informatori dei rapporti tra potere e cittadini, e allo stesso tempo il controllo della società, del dissenso nella società, è di tipo poliziesco, no? Un'altra caratteristica, per esempio, è che tutta questa serie di valori poi comportano la gerarchia, quella che anche noi sempre poi da tanto tempo combattiamo come meritocrazia e che porta al servilismo, alla delazione e compagnia bella, e infatti tutta questa serie di valori comportano nella società un certo tipo di rapporto tra gli individui e anche nei rapporti personali, cioè viene appunto esaltata la delazione, i cittadini e le cittadine, le persone vengono spinte all'autocontrollo e all'autocensura, quindi una vigilanza su se stesse e su se stessi, e quindi il servilismo come fondante del rapporto col potere, del rapporto sul posto di lavoro, del rapporto nella scuola, del rapporto all'interno della famiglia. Sì, che è tutta una struttura individualizzante, no? A quel punto, cioè, si tenta di frammentare il corpo sociale in tanti piccoli soggetti che competono fra di loro, insomma. Da tutto questo ne deriva poi un certo tipo di rapporto violenza-guerra, per cui la guerra è un concetto informatore rapporti dell'Occidente con i paesi del terzo mondo, dei rapporti fra le nazioni. C'è l'esaltazione anche, tra l'altro, della modalità della guerra portata anche all'interno della nazione, cioè la virilità, la militarizzazione, il concetto dell'uomo forte, no? Quindi la guerra come informatrice dei rapporti esterno-interno, e proprio anche esaltazione come modalità di controllo del divenire dell'uomo, chiamiamola così in senso lato. È proprio una struttura che attraverso la guerra esalta quello che diceva prima Margherita, l'esaltazione dell'uomo bianco nei confronti, l'esaltazione razziale, l'esaltazione classista, no? E quindi è un concetto informatore che è particolarmente devastante, perché quando una società è impostata sull'esaltazione della guerra, è chiaro che è impostata sull'esaltazione della virilità, della violenza, poi di fatto, no? E questo che cosa comporta poi, tra l'altro? Che una delle modalità di controllare il dissenso è anche internare i soggetti non graditi, tant'è vero che uno per tutti, dato che ci interessa a noi da vicino, il campo di internamento femminile di Ravensbrück a Uckermark nella Germania nazista, era per sole donne, per giovani ragazze, e vi erano internate ragazze o donne che venivano soprattutto, al di là delle dissidenti politiche o parenti di dissidenti, mandate dai servizi sociali, perché i servizi sociali le definivano come asozialen. E questo che cosa comporta? Che c'è una impostazione poliziesca dei servizi sociali. Ultima nota è il fatto che il fascismo e il nazismo non sono delle configurazioni esterne alla borghesia come vorrebbero farci credere, come vorrebbero far passare momenti di follia, momenti di non si sa quale perdita, è stato un raptus, bensì sono scenari che la borghesia sceglie quando le sono utili. Allora, fatta questa premessa importante, perché sappiamo da dove e di cosa stiamo parlando e le caratteristiche che intendiamo indagare, la cosa più importante secondo noi è ritrovare, indagare e scoprire se e come in questa società in cui noi siamo infilate le caratteristiche fasciste e naziste, seppure sotto mentite spoglie, non solo vivono e si realizzano, ma anzi sono portanti rispetto alla società neoliberista. Una, per esempio, è l'eliminazione della mediazione partitica e sindacale, il governo diretto dell'esecutivo, l'eliminazione della mediazione parlamentare, no? Sì, infatti, diciamo, un sacco di tratti autoritari, no? Cioè c'è un'involuzione autoritaria della democrazia, delle democrazie occidentali, che è sotto gli occhi di tutti. Però in particolare, appunto, si avrà, avremo modo di parlare di questa cosa anche in futuro, visto che insomma a ottobre verremo chiamati a votare per un referendum confermativo della riforma costituzionale che hanno appena fatto e che riguarda, diciamo, la stessa forma di governo e anche quella di Stato. Quindi da una parte riguarda il rapporto tra le Camere, quindi la forma di governo tra esecutivo, legislativo, giudiziario, eccetera, dall'altra riguarda anche la forma di Stato, quindi i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali, quindi le regioni, i comuni, eccetera eccetera. Allora, no, senza approfondirla troppo, anche perché ci torneremo e poi ci interessa darne dei tratti così salienti, per comprendere che appunto con questa riforma che hanno appena fatto c'è un accentramento molto forte nei confronti dello Stato, quindi in totale controtendenza rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 15 anni, cioè di devolvere un sacco di materie alle regioni. Adesso invece si riaccentra verso lo Stato, e anche quelle materie che vengono lasciate di competenza regionale possono essere attratte dallo Stato centrale, che in questo momento poi lo Stato centrale chiaramente è un partito, è il partito di maggioranza, che quindi, no, e poi lo vedremo, perché appunto eliminando la mediazione parlamentare, riducendo le Camere che dovrebbero essere appunto lo snodo, cioè l'organo rappresentativo e quindi politico, l'unico detentore dell'indirizzo politico del paese rimane, quindi anche esecutivo, rimane il governo. Allora questo accentramento verso lo Stato, che sarebbe poi verso un partito, il partito di maggioranza, che appunto è a capo anche del governo, si può fare tutte, cioè lo potranno fare tutte le volte in cui lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica o l'interesse nazionale. Queste sono formule emblematiche che vengono sempre utilizzate, no, per accentrare competenze che in realtà ci sono sempre in tutte, anche nella nostra Costituzione, però chiaramente il termometro te lo dà quanto vengono utilizzate, no, e il fatto che queste appunto vengano anche reinserite ti dà un po' la misura di questo spostamento, questo accentramento. Poi invece rispetto alla forma di governo che hanno votato questa riforma, che significa rafforzare l'esecutivo, in che modo? Nel modo per cui il legame fiduciario tra le Camere e l'esecutivo non sarà più con tutte e due le Camere, Senato e Camera dei Deputati, ma soltanto con la Camera dei Deputati. Anche dal punto di vista legislativo hanno rafforzato la posizione del governo, perché adesso il governo può qualificare un disegno di legge come assolutamente prioritario e strategico, e quindi può imporre alle Camere di votarlo entro 60 giorni, no? Quindi diciamo avvia tutta una serie di canali privilegiati, e sappiamo perfettamente che tutto quello che passa come riforma adesso non è più una riforma in senso migliorativo, ma è proprio una funzione del capitale, è una funzione del capitalismo permanente. Questo o fa le riforme e quindi sposta sempre di più il rapporto tra le classi in senso chiaramente peggiorativo e repressivo per le classi subalterne, oppure non riesce a estrarre il plusvalore che gli serve. Quindi con questo canale privilegiato queste riforme si potranno fare ancora più velocemente, no? In nome della priorità e della strategicità. E poi chiaramente riduce la rappresentatività e la consistenza del Senato, che viene ridotto a una specie di, si va tipo verso un sistema elettorale che assomiglia a quello americano, perché il Senato sarà votato dai consigli regionali invece che dagli elettori, quindi vabbè, tolgono di mezzo una Camera e tutto questo. Ma in realtà appunto il tratto poi alla fine più qualificabile insomma come fascista è proprio invece questo cumulo in una stessa persona della carica di presidente del consiglio e di partito di maggioranza, per cui poi quella stessa persona e quel partito riesce ad influenzare le politiche a tutti i livelli territoriali, no? Chiaramente un consiglio regionale sarà vincolato alla politica del partito di maggioranza, no? E quindi questo partito che si fa Stato ci sembra uno dei tratti caratterizzanti di questa involuzione. Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io mi assumo io solo la responsabilità politica, morale, storica di quanto è avvenuto. Roma, Camera dei Deputati, 3 gennaio 1925, Mussolini sul delitto Matteotti. Sono addolorato e mi assumo io tutta la responsabilità, parte del discorso di Matteo Renzi alla direzione nazionale PD. Assumersi tutte le responsabilità di un'operazione democraticamente, economicamente così grave come quella che è successa in Basilicata, no? Significa diventare assoluto, cioè sciolto dai legami che lo legano alle regole che legano tutti gli altri. Significa che il Presidente del Consiglio, o al meglio il Premier, come si fa chiamare, come ama farsi chiamare, concentra effettivamente tutti i poteri, può tutto, lui decide e lui si assume la responsabilità. Che poi entrambe sia appunto le citazioni che faceva Eli che il discorso di Marghe, diciamo in prospettiva su questo nuovo referendum che ci proporranno, si lega molto poi al discorso di quello che è il consenso che il fascismo e il nazismo poi hanno, no? Sul quale hanno lavorato. Il governo del PD in questo ha dimostrato insomma negli ultimi periodi quanto proprio abbia investito, soprattutto all'inizio, su un impianto propagandistico di comunicazione molto forte, ha lavorato molto sulle parole, sul linguaggio che ha appunto fatto passare, e questo ovviamente ha creato del consenso, perché nel momento in cui questo mi era venuto in mente adesso, no, pensando al fatto che tutto sarà più semplice, più veloce, perché è così che viene venduta questa riforma, no? Un modo per accelerare e migliorare il ruolo delle istituzioni nei confronti dei cittadini, no? E questo mi fa pensare appunto di quanto in realtà questo sia stato sussunto già con il lavoro precedente del PD, non a livello di oggi in cui ormai ha ha preso tutto il potere, ma quando stava accaparrandosi il potere e stava salendo insomma sul monte con questa sua nuova, diciamo, forma, molto più simile al fascismo di quello che era anche il centro-sinistra da cui più o meno proveniva, e proprio perché appunto questo lavoro di propaganda ha consolidato tutte le idee che ora stanno passando, che siano la buona scuola, che sia la riforma costituzionale, che sia un referendum inutile sulle trivelle, che siano le riforme del lavoro, certo, è tutto comunque fatto in funzione di un miglioramento, adesso soffriamo per poi stare meglio dopo, che era un concetto fondamentalmente che faceva passare il fascismo del primo periodo. E anzi, da questo punto di vista, cioè sulla retorica e sull'ideologia dell'efficientismo, in realtà qua ci sono delle radici anche naziste, perché appunto, per esempio, no, negli studi giuridici, no, cioè si studia che il nazismo è riuscito ad operare una sorta di contabilizzazione del diritto, cioè con questa retorica dell'efficientismo è riuscito a diciamo rendere neutro, praticamente rendere neutra la norma, naturalizzarla, e quindi il giurista, il giudice, così si riduce semplicemente a calcolare, no, se quella cosa è corretta o non è corretta, ed è così che, diciamo, si possono internare milioni di persone, perché è corretto o non è corretto da un punto di vista di mero calcolo. A proposito della buona scuola, Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, sabato 2 giugno 1923, articolo 27. Le supplenze ai posti di ruolo e gli incarichi di insegnamento di qualunque specie sono scelti e conferiti dal preside Benito Mussolini. A proposito del lavoro, il principio che l'organizzazione sindacale non deve basarsi sul criterio dell'irriducibile contrasto di interessi tra industriali e operai, ma ispirarsi alla necessità di stringere sempre più cordiali rapporti tra i singoli datori di lavoro e i lavoratori, e fra loro e le organizzazioni sindacali. Patto di Palazzo Chigi fra Confindustria e Confederazione Generale delle Corporazioni Fasciste, 21 dicembre 1923. Tanto per continuare sulle caratteristiche fasciste e naziste della società neoliberista, vogliamo parlare dei CIE? Vogliamo parlare dell'internamento per condizione, quindi attraverso la detenzione amministrativa dei soggetti non graditi a questa società, che ci ricorda appunto tanto l'internamento dei soggetti asozialen nella società nazista? E infatti questo apre anche il discorso, e poi apre anche il discorso razzista, cioè tanto questa società fa della retorica antirazzista, come fa della retorica antifascista, come fa della retorica antisessista, tanto più invece è fascista, nazista, razzista e sessista nella sostanza, no? E infatti c'è una gestione poliziesca anche dei servizi sociali, dei rapporti dei servizi sociali con il cittadino, tanto è vero che è sempre più diffuso il fatto di togliere i figli alle famiglie se sono povere, anche semplicemente povere, non sono in grado di mantenere decorosamente, mi devono spiegare cosa significa decorosamente, i figli. E non parliamo poi se per caso qualcuno osa occupare una casa. Ci sono le registrazioni di assistenti sociali che minacciano la madre di portargli via i figli, perché è un esempio pessimo per i loro figli. Una che occupa una casa, può vivere per strada, non è un esempio, però che poi ci ricorda tanto la retorica dell'aborto, per cui è pessimo abortire, però poi far morire la ragazzina di fame, no, assolutamente, assolutamente no. E tutto questo comunque rientra in quel trascinamento dello Stato, dallo Stato di diritto allo Stato etico, che è proprio dell'impostazione fascista, ma ancor più nazista. Cioè lo Stato ha la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita in tutti i campi, cioè attraverso il politicamente corretto, che è stato uno strumento fortissimo di mistificazione rispetto a tutta una serie di concetti, e è stato il cavallo di Troia attraverso cui far passare fortemente il concetto di legalità, perché anche il concetto di legalità e di superiorità dello Stato rispetto ai cittadini, e quindi quello che fa lo Stato e quindi le leggi dello Stato sono qualcosa di ipse dixit, tipo un dettato divino, è nazista, nel senso fa parte di tutto un percorso etico di stampo nazista. A questo proposito, proprio e a proposito del cambiare la Costituzione di cui parlava prima Margherita, volevo ricordare che la Costituzione nostra appunto viene dalla Resistenza. Viene dalla Resistenza, ma e nonostante tutto ha dei connotati particolari. Per esempio, nella Costituente, cioè quando stavano facendo le riunioni per fare la Costituzione, Dossetti, che era un cattolico e quindi inattaccabile, voglio dire, si è fatto frate, ma mi pare frate laico o qualcosa del genere, insomma si è ritirato in convento disgustato dall'esperienza che aveva fatto, voleva far mettere nella Costituzione che il popolo ha il diritto dovere di ribellarsi di fronte a un governo autoritario, dittatoriale o non democratico. Chiaramente gliel'hanno messa questo articolo, però per dire lo spirito in cui è stata costruita la Costituzione, che poi è stato un vabbè, però c'erano state anche tante epurazioni prima dell'assemblea costituente, molti resistenti non si sedettero non ci sono andati. Beh, infatti Dossetti è entrato perché era cattolico. Poi hanno fatto un salto sulla sedia quando ha proposto questa cosa. Resistenza è una strana cosa, perché rivendica, cioè scriverlo in Costituzione, insomma, ha un senso forse simbolico, ma sicuramente non assicura nulla, no? Per esempio nella Costituzione tedesca è scritto il diritto, il dovere di resistere a un governo ingiusto, però è la stessa Costituzione, per esempio, che si dice che è una democrazia blindata, nel senso, certo, che vieta la ricostituzione, la competizione tra partiti politici radicali, cioè sia quello comunista, secondo lui, quello nazista e fascista. Quindi diritto, scrivere in Costituzione il diritto alla resistenza non ha senso, quelli però sono rapporti di forza. Sì, di fatto. Però il fatto che una persona in quel momento sia venuta in mente questa cosa, più di lui, insomma, c'era una che lo sosteneva. Vuol dire che aleggiava un certo spirito, come sempre quando si viene fuori da momenti di lotta, no? E quindi di riacquistati diritti di qualche tipo. A questo punto, appunto, stavamo parlando del trascinamento dello Stato di diritto allo Stato etico, ci vengono in mente una marea, un mare di norme, normative, eccetera, fra cui quella devastante, drammatica del l'attacco al diritto di sciopero, per esempio, che è proprio di stampo fascista, no? C'è la famosa cosa, quando c'era lui nessuno scioperava e funzionava tutto, e i famosi treni arrivavano in orario, no? sì. Perché? Perché nessuno osava scioperare. E ancora, e adesso si sta man mano riproponendo questo tipo di mentalità anche nei cittadini. Perché quando la fermata dell'autobus, l'autobus non arriva perché c'è lo sciopero dei mezzi, la gente comincia a dire io non posso andare al lavoro, stanno facendo sciopero. Sì, anche quando non c'è sciopero la gente picchia selvaggiamente gli autisti degli autobus quando sono in ritardo. Sì, no, cioè. Sì, è diventato, cioè, diciamo che politicamente corretto di cui parlavamo prima è riuscito a far passare un concetto fortissimo di legalità che attraversa il comune sentire e che è pericolosissimo. È pericolosissimo, per cui l'ha fatto passare attraverso sempre nobili intenti, buone cause, no? Allora, dai cani che sporcano per terra e quindi uno deve pulire, alle scritte sui muri che deturpano la proprietà privata, alle sembrano piccole cose, ma è passato attraverso queste. Sì, è quella che viene chiamata normalizzazione anche, no? Cioè sì. Il fatto che comunque allo stato attuale tutto il congegno repressivo non passa soltanto per quello militare o carcerario, no? Cioè proprio la sanzione penale diretta, no. Ma passa anche per tutto un lavoro, cioè loro propongono un modello di condotta e lo fanno interiorizzare, no? Questa anche per noi è sempre stato il concetto di normalizzazione, certo. Cioè questa introiezione dei valori dominanti, appunto il discorso sulla meritocrazia, no? Sul decoro, sul benessere inteso come lo intendono loro, no? Ed è la naturalizzazione di rapporti di forza, di rapporti di classe, di rapporti tra i sessi, no? Che viene invece naturalizzata e viene assunta anche dagli stessi oppressi, ed in questo allora cambia anche la visione, la prospettiva da cui uno deve guardare ad alcuni movimenti, certo. Come ad esempio il Se non ora quando, certo. Che non sono soltanto dei movimenti di opinione, no? Ma che acquisiscono ormai proprio anche dei poteri effettivi, cioè molto incisivi sulla società, perché loro propongono un certo modello di donna. Certo, tant'è vero che la grande arma del PD, perché è il PD che ha naturalizzato il neoliberismo nella società, che lo sta naturalizzando ancora e lo sta facendo, e l'ha fatto attraverso strumenti, lessico e modalità che appartenevano alla sinistra, ed è per questo che è passato, perché se fosse stato un discorso apertamente reazionario, apertamente di destra, ci sarebbe stata una reazione, mentre la gente non era vaccinata rispetto a un discorso portato avanti da sindacati, partiti eccetera eccetera, con un vocabolario e un lessico della sinistra. È stata un'arma vincente e ci ha fatto arrivare fino qua. Sì, è quello che diceva anche Noemi sul consenso, esatto. Quindi anche tutti, la Leopolda, questo luogo mitico, io sì. Ho messo mesi a capire che cos'era la Leopolda, no? Però questi incontri nazionali di partito con la gioventù del PD eccetera diventano dei luoghi invece proprio decisionali, cioè programmatici, importanti, non sono soltanto così, ed è per diciamo che un'altra, l'arma del PD però è stata non presentarsi direttamente, sì. Ma presentarsi attraverso tutta una serie di strutture collaterali, tipo appunto Se non ora quando, che portavano avanti questo tipo di impostazione di valori e un ribaltamento assoluto dei valori a cui noi dal punto di vista femminista davamo per scontato, eravamo informati, il femminismo era informato, e addirittura lo sdoganamento di note fasciste, strutture clericali,

if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Eccoci qua di nuovo in diretta per l'ultima parte della trasmissione, quella che abbiamo chiamato antifascismo militante. Perché antifascismo militante? Perché l'antifascismo militante è necessario, è una condizione senza cui la militanza, cioè con cui la militanza deve fare comunque e sempre i conti, anche noi come femministe. E anche secondo me è anche importante, no, dedicare gli ultimi 10 minuti, perché dire che alla seconda parte sì, non è proprio un eufemismo, come al solito ci mangiamo tutto, sì, nella prima. Servirebbero le giornate, e perché appunto insomma ci piaceva anche dare, no, una prospettiva positiva poi a tutto ciò che abbiamo elencato prima, che di positivo non ha nulla. Ovviamente quello che abbiamo evidenziato rispetto a quello che è anche l'azione militante antifascista è ovviamente sicuramente l'individuazione del proprio nemico, e in questo caso appunto come nella prima parte abbiamo provato a fare ovviamente insomma in maniera sintetica, PD e quindi il neoliberismo hanno ovviamente sdoganato l'ideologia fascista utilizzandone appunto tutti i mezzi, dalla violenza squadrista, pensiamo appunto alla repressione di piazza che avviene in questo momento, ma non solo, perché ovviamente si sono evoluti e hanno ovviamente trovato nuove metodologie di repressione. E pensiamo, l'abbiamo detto mille volte, no, ad Equitalia o alle multe amministrative, che uno pensa appunto che se non c'è il sangue, i denti per terra durante una manifestazione non c'è stata repressione. Purtroppo invece, no, invece ci sono delle forme che non sono visibili ma sono molto violente, e che sono molto violente, sono violente soprattutto per il discorso che facevamo prima del consenso sull'illegalità, cioè, quindi no, sul fatto che sei tu che non hai pagato, sei tu che hai bloccato il traffico, sei tu che comunque hai fatto qualcosa che non dovevi, dovevi utilizzare forme democratiche per esprimerti. E proprio sul concetto, no, di democrazia, che poi giocano ovviamente, no, gioca molto la nostra controparte, e sulla quale dobbiamo stare proprio attenti anche noi nell'individuazione appunto di che cos'è il concetto di democrazia, perché senza che mi perdo ovviamente nel descrivere, no, dal punto di vista sociale cosa intendiamo noi per democrazia, parliamo più che altro del fatto che la democrazia è vissuto come un concetto completamente assoluto e assolutistico. In realtà appunto si viene proposta come, diciamo, l'ideologia più bella, più illuminante tra tutte le ideologie politiche, no? Il raggiungimento del massimo sistema politico è quello appunto dove un sistema democratico si riesce ad esprimere. In realtà noi in qualche modo dobbiamo anche comprendere che invece quello che passa per sistema democratico è proprio la forma politica in realtà in cui si esprime il fascismo, cioè nel senso le connotazioni democratiche che sono appunto attuali, che sono quello della maggioranza, no, del popolo, dei cittadini che si esprimono, l'utilizzo delle parole come cittadino, la divisione in corporazioni, il fatto che appunto abbiamo un governo di poteri economici e tutto appunto quello di cui prima insomma che abbiamo provato a mettere. Fanno sì che appunto noi individuando questi problemi, individuando questi nemici, siamo in grado, quasi come, cioè nel senso, ora passatemi la parola, però da antifascista, da antifasciste, per noi dovrebbe essere quasi un dovere dover mettere in discussione e alla gogna questa modalità di pensiero. Molto spesso appunto non ci mancano, questo discorso l'abbiamo fatto spesso, no, anche modalità nuove, pratiche differenti da mettere in campo contro l'antifascismo, che purtroppo non si manifesta sempre ovviamente nelle sue forme classiche sono quelle squadriste. Pensiamo a quello che è successo a Napoli, alle compagne che sono state, alla compagna che è stata aggredita, o a tante altre situazioni in cui appunto si sono dimostrati, no, in strada come dei topi che fuoriescono dalla loro casetta e attaccano. Ma non solo, non è solo quella la forma purtroppo con la quale noi ci ritroviamo. Ovviamente compito dell'antifascista è anche reagire, no? E trovare la maniera più intelligente, però dobbiamo elaborare nuove forme, nuove modalità di antifascismo che possano essere quella davvero di organizzarsi collettivamente contro appunto pratiche che vengono messe in atto contro di noi, che può essere appunto l'occupazione delle case, che può essere riprendere il discorso sulle autoriduzioni, addirittura di non pagare collettivamente le bollette, di opporsi non solo con manifestazioni, presidi, che comunque rimangono importanti, ovviamente non è che vengono declassati, ma c'è bisogno, visto che il fascismo in questa sua diciamo nuova è riuscito comunque appunto, come diceva prima Elisabetta, no, a mascherarsi dietro a un lessico di sinistra, dietro delle pratiche che sembravano vagamente, no, appunto democratiche. Certo. Noi dobbiamo riuscire a smascherarle e proprio su quelle andare a inficiare per evitare appunto di essere noi anche, no, il tramite poi di questo fare democratico, perché purtroppo quello che anche cioè nel senso non è che è stato qualcosa che i compagni e le compagne hanno poi modulato, ma perché non avevamo gli strumenti di comprensione, appunto perché non ci è mancato un pezzo in cui storicamente non abbiamo individuato il nostro nemico. Questo ha fatto sì che anche noi abbiamo sussunto delle pratiche che sono state le stesse pratiche, come appunto, e lo dico da compagna che fa parte di vari comitati di quartiere, no, su contro la cementificazione, però quelle forme vanno superate, quelle forme vanno integrate di un'ideologia più forte, che è l'ideologia antifascista. Non possono avere ovviamente quel nome adesso, magari in questa fase non è importante, no, tanto quel tipo di cambiamento, quanto il fatto che in quei luoghi, in tutti i luoghi che attraversiamo, dobbiamo essere in grado di portare l'antifascismo militante con le nostre parole d'ordine, con le nostre pratiche. E quindi, tanto per chiudere questo lungo discorso che abbiamo fatto su il fascismo neoliberista, sul neoliberismo fascista e nazista, sui connotati che ha questa configurazione sociale, possiamo dire che adesso, in questo momento, l'antifascismo militante si dovrebbe muovere su due piani. Da una parte resta sempre valida e dovuta la pratica militante di opposizione a tutte le manifestazioni di fascismo in orbace, cioè dei gruppi fascisti, quelli dichiaratamente fascisti, e quindi la pratica militante e l'azione militante di contrasto è necessaria e dovuta. Però contemporaneamente dobbiamo muoverci contro chi porta avanti il fascismo all'interno di questa società, l'impostazione fascista, e quindi contro il PD. Quindi tanto per sintetizzare quello che abbiamo detto finora, se dovessimo chiudere in due parole che cosa significa per noi antifascismo militante, significa chiudere i corpi fascisti e chiudere i corpi PD. We'll be right back. In chiusura vi vogliamo leggere una lettera dei genitori, degli amici, dei compagni, dei compagni e delle compagne denunciati, arrestati, messi ai domiciliari e sotto configurazioni varie a Torino, perché è esplicativa di una situazione, cosa significa adesso essere contro il fascismo. Lettera aperta a chi crede nel 25 aprile e riconosce come fondante della nostra società il valore e la pratica dell'antifascismo. Siamo le madri e i padri, i familiari e i tanti amici dei 28 ragazzi e ragazze che nella nostra città Medaglia d'Oro per la Resistenza sono stati sottoposti a misure cautelari molto dure. Non per aver rubato soldi pubblici, né per aver avvelenato l'aria con la polvere di amianto, ma per aver lottato contro il treno ad alta velocità Torino-Lione, oppure per aver difeso le aule universitarie dai tentativi sempre più frequenti di infiltrazione da parte dei fascisti torinesi, o ancora per aver manifestato in corteo contro la presenza e i comizi di un partito xenofobo e razzista che ben conosciamo. Ebbene, questi ragazzi sono stati incarcerati in casa, in stretto isolamento, costretti quindi alla perdita del loro lavoro, allontanati dalla frequentazione dei loro corsi universitari, per cui hanno pagato tasse sempre più alte, e dei loro amici, o di tutte queste cose insieme, tutti privati dei loro affetti. E tutti noi familiari, privati dei nostri figli, o sottoposti con loro a restrizioni personali molto forti, obbligati a tenere fuori da casa nostra l'idraulico, il nonno, il postino, svegliati durante la notte dai frequenti, pretestuosi controlli di solerti forze dell'ordine, con l'angoscia e la consapevolezza che per i nostri figli si sta creando un chirurgico isolamento sociale. Questi ragazzi, che sono tutti in attesa di processo, quindi non ancora giudicati da sentenza, vivono questa repressione per aver fatto quello che noi gli abbiamo insegnato, valori antifascisti e di solidarietà, quello che noi, forse per stanchezza o per il troppo impegno che oggi è indispensabile per mantenere a galla noi stessi, le nostre famiglie, le nostre case, non facciamo più. Magari pensiamo e giudichiamo, ma non agiamo. Loro invece sì, agiscono quotidianamente, con coraggio, con intelligenza del presente, con generosità e simbiosi con gli ultimi. Non con la violenza agiscono, ma con una cosa semplice dal nome antico che tutti conosciamo: la libertà di dissenso, il coraggio della partecipazione. Noi glielo abbiamo insegnato. E allora, davvero ritenete di poterci sostituire, di poter far meglio di noi nell'educazione politica e sociale dei nostri figli, combinando isolamento e punizione e impoverimento prima del processo? Tutti questi ragazzi sono nostri figli ed è giunto il momento per noi di agire per loro. I nostri ragazzi non sono solo nostri, perché lottano ogni giorno per migliorare il futuro di tutte e tutti, senza anteporre interessi personali. Oggi, come genitori e parenti, prendiamo temporaneamente il loro posto, perché dei giudici poco imparziali continuano a privarli della libertà, punendoli senza che ancora ci sia una sentenza. Si dice che si è innocenti fino al terzo grado di giudizio, in queste altre vicende non vi è nemmeno un processo. Testimoniamo la loro assenza con i nostri corpi e le loro idee, per la costruzione di un presente migliore e per un futuro di diritti uguali per tutte e per tutti. Siamo qua, pronti a prendere il loro posto, almeno per un poco, almeno fino a che ce la faremo, con i nostri corpi. Allora, siamo in chiusura di trasmissione. Per risentire la trasmissione su coordinamenta.noblogs.org, per scriverci coordinamenta@autistiche.org, per finanziare la radio il conto corrente postale 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00 185 Roma. Ciao.